765. Gelato di tutti i frutti. Di tutti i frutti per modo di dire, ma bastano 3 o 4 qualità, come vedete nella seguente ricetta, sufficiente per 4 persone. Zucchero grammi 200, albicocche ben mature, pesate col nocciolo grammi 100, lampone grammi 100, ribes grammi 100, cedro candito grammi 20, acqua mezzo litro. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti. Uniteci dopo la polpa delle dette frutta passata dallo staccio, poi il cedro candito tagliato a pezzettini. Invece delle albicocche possono servire le pesche burrone e al ribes si possono sostituire le fragole.